terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Introduzione di Roberto Galaverni. Buon ascolto a tutti. Sono qui per introdurvi alla lettura e all'ascolto dunque di un romanzo d'eccezione, Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, romanzo celeberrimo che uscì nel 1962 per Einaudi. Ricordo che entrò poi qualche anno dopo, nel 1974, come terzo libro, terzo tempo dell'opera complessiva di Bassani, che prese il titolo Il romanzo di Ferrara. Ricordo anche le tappe di questo romanzo di Ferrara, prima Dentro le mura, poi Gli occhiali d'oro, sono tutti splendidi romanzi o comunque opere narrative composte di racconti, il terzo tempo, il nostro Il giardino dei Finzi Contini, poi Dietro la porta, L'airone e L'odore del fieno. Dicevo che Il giardino dei Finzi Contini è il romanzo più celebre di questo narratore ferrarese, anche se in realtà lui era nato nel 1916 a Bologna, ma poi infanzia e adolescenza trascorrono tutte a Ferrara e a Ferrara guarda nella sua interezza la sua opera narrativa e anche, devo dire, la sua opera di poeta che non è affatto trascurabile. Romanzo celeberrimo perché ebbe intanto successo autonomamente, poi nel 1970 uscì anche questo film, Il giardino dei Finzi Contini, per la regia di De Sica e questo contribuì all'affermazione del romanzo stesso, anche se va subito detto che Bassani non gradì tanto quella trasposizione cinematografica, soprattutto per alcuni particolari cambiamenti della sceneggiatura che a suo dire indebolivano l'integrità morale del narratore stesso. Che dire, è difficile introdurre un romanzo così intenso e poetico e noto. Da un lato qualcosa va detto di questa Ferrara a cui nel suo complesso l'opera di Bassani guarda e anche questo romanzo e quindi le vicende raccontate in questo caso da un narratore in prima persona che è dunque personaggio del poeta dei tardi anni venti, gli anni del fascismo italiano, le incertezze, le debolezze, ma anche le gioie della borghesia, in particolare della borghesia ebraica, di origine ebraica era anche la famiglia di Bassani, che attraverso questi anni, anche nell'inconsapevolezza del dramma terribile che l'aspettava, fino alla promulgazione delle leggi razziali nel 1938 e poi la deportazione della famiglia, e qui ci siamo già, dei Finzi Contini, che viene accennata nell'epilogo del romanzo, questo nell'autunno nel settembre del 1943. Ma è vero questo anche, che il romanzo, seppure guarda a quegli eventi che vengono pian piano a pezzi ricostruiti e indicati anche con molta precisione, non nasce da parte di Bassani come un affresco appunto di ricostruzione storiografica, non è un narratore di questa natura. In realtà anche il personaggio narratore in prima persona è un narratore emotivo, lirico, ricerca la verità e l'incisione nella propria memoria dei destini di alcuni personaggi, in particolare del personaggio principale, insomma, che svetta come una specie di arcobaleno su tutta la vicenda, che è quello di Nicole Finzi Contini, quindi la figlia dei Finzi Contini. Quindi un romanzo che si immagina ricostruito e raccontato nei primi anni 60 e riguarda vicende avvenute anche una trentina di anni prima, un romanzo che insegue il corso della memoria, un po' anche secondo le intermittenze del cuore prustiane. E quindi un romanzo sussultorio, fatto a strappi, tutt'altro che coeso, appunto secondo i modi di un grande affresco. Del resto era lo stesso Bassani a dire che il cuore era così il metronomo della sua narrativa, un cuore a volte affidabile, a volte meno affidabile, non sempre capace di ricostruire la logica delle cose, ma sicuramente individuato come la bussola del proprio sentire e quindi della propria scrittura da parte di Bassani. Dico questo perché prima di tutto in Bassani ci sono sempre i personaggi con la loro autonomia, la loro integrità. E se ci sono degli sfregi, questi riguardano il tempo, la memoria che ha perduto degli elementi, ma in realtà non sono mai dimostrativi di altro rispetto a se stessi. Avanzano con la loro semplice, nuda e irrefutabile verità. Non è Bassani un narratore dimostrativo, è semmai, lo dicevo, un narratore emotivo. Il romanzo davvero è incantevole. Ci sono le vicende di queste due famiglie, perché come controcanto all'incontro del giovane narratore con Micolle, con la famiglia dei Finzi Contini, c'è anche il riferimento alla famiglia del narratore stesso, meno alto borghese. E davvero è un incanto lo sprofondamento e l'iniziazione del narratore dentro il mondo di Micolle e in particolare dunque al giardino, che è davvero il luogo centrale e pulsante non solo del romanzo ma direi di tutta la narrativa di Bassani. E qui ci sono nella costellazione d'ombra e di luce, ma anche d'ombra, perché si sente che il romanzo è traguardato a un finale tragico, ci sono tutti gli incontri del narratore con i misteri dell'esistenza proiettati e fatti precipitare appunto dentro il giardino. E attraversato da personaggi bellissimi, ma devo dire sempre minori rispetto alla fulgida stella di Micolle, i suoi genitori, Ermanno, Olga, il fratello Alberto, la signora Regina che era la nonna, e poi le grandi scoperte dentro questo topos della letteratura che è il giardino, i fiori, le piante, giardino che si erge anche a luogo non soltanto reale ma metaforico, un po' come in tutta la narrativa di Bassani e devo dire come capita in genere nella grande narrativa. È quel giardino, è quel luogo, ma non si sa bene dove poi sia collocato, in quale cunicolo del tempo, in quale luogo della memoria e alla fine anche in quale luogo della memoria dei lettori. Dunque, dicevo, un grande romanzo sul tempo, sul destino, sui rapporti tra la realtà e la memoria, tra la realtà e l'immaginazione, tra il ricordo e la cancellazione. Scritto in una lingua felicissima, si usa spesso la parola naturalezza, ecco questa difficile, ardua da ottenere naturalezza di Bassani. Io intanto vi auguro buon ascolto, seguirà una lettura di un lettore, di un interprete d'eccezione che è Sandro Lombardi, mentre noi ci sentiremo alla fine della lettura del romanzo per un breve commento finale. Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi Contini, di Micolle, di Alberto, del professor Ermanno e della signora Olga, e di quanti altri abitavano, o come me frequentavano, la casa di Corso Ercole I d'Este, a Ferrara, poco prima che scoppiasse l'ultima guerra. Ma la spinta, l'impulso a farlo veramente, l'ebbi soltanto un anno fa, una domenica d'aprile del 1957. Fu durante una delle solite gite di fine settimana. In un gruppo di amici, distribuiti su due automobili, ci eravamo avviati lungo l'Aurelia subito dopo pranzo, senza una meta precisa. A qualche chilometro da Santa Marinella, attirati dalle torri di un castello medioevale spuntate improvvisamente sulla sinistra, avevamo voltato per una viottola di terra battuta, finendo poi a passeggiare in ordine sparso lungo il desolato arenile che si stendeva ai piedi della rocca. Molto meno medioevale quest'ultima, esaminata da vicino, di quanto non avesse promesso da lontano, quando, dalla nazionale, l'avevamo veduta profilarsi contro luce sul deserto azzurro e abbagliante del Tirreno. Investiti in pieno dal vento, con la sabbia negli occhi, senza neanche poter visitare l'interno del castello perché sprovvisti del permesso scritto dell'amministrazione di non so che istituto romano di credito, assordati dal fragore della risacca, ci sentivamo profondamente scontenti e irritati di aver voluto uscire da Roma in una giornata come quella, che adesso, in riva al mare, si rivelava di un'inclemenza poco meno che invernale. Camminammo su e giù una ventina di minuti, seguendo l'arco della spiaggia. L'unica persona allegra della comitiva appariva una bimbetta di 9 anni, figlia della giovane coppia nella cui automobile ero ospitato. Elettrizzata proprio dal vento, dal mare, dai pazzi mulinelli della sabbia, Giannina dava libero sfogo alla sua natura allegra ed espansiva. Benché la madre tentasse di proibirglielo, si era levata scarpe e calze, si spingeva incontro alle ondate che venivano all'assalto dalla riva, si lasciava bagnare le gambe fin sopra le ginocchia. Aveva l'aria di divertirsi un mondo, insomma, tanto che di lì a poco, quando rimontammo in macchina, vidi trascorrere nei suoi occhi neri e vividi, scintillanti sopra due tenere guancine accaldate, un'ombra di schietto rimpianto. Riguadagnata l'Aurelia, in 5 minuti giungemmo in vista del bivio di Cerveteri. Poiché era stato deciso di rientrare immediatamente a Roma, non dubitavo che si tirasse dritto. Ma ecco, invece, a questo punto, la nostra macchina rallentare più del necessario e il padre di Giannina metter fuori il braccio dal finestrino. Segnalava alla seconda macchina, distanziata di una 30 metri, la propria intenzione di svoltare a sinistra. Aveva cambiato idea. Ci trovammo così a percorrere la liscia stradetta asfaltata che porta in un momento a un piccolo borgo di case in gran parte recenti e di lì, inoltrandosi a serpentina verso i colli del retroterra, alla famosa necropoli etrusca. Nessuno chiedeva spiegazioni e anch'io stavo zitto. Dopo il paese e la strada, in lieve salita, costrinse la macchina a rallentare. Passavamo ora a pochi metri dai cosiddetti montarozzi, di cui è sparso fino a Tarquinia e oltre, e più dalla parte delle colline che verso il mare, tutto quel tratto del territorio del Lazio a nord di Roma, il quale non è altro dunque che un immenso, quasi ininterrotto cimitero. Qui l'erba è più verde, più fitta, più scura di quella del pianoro sottostante, fra l'Aurelia e il Tirreno, segno che l'eterno scirocco, che soffia di traverso dal mare, arriva quassù avendo perduto per via gran parte del salmastro e che l'umidità delle montagne non lontane comincia a esercitare sulla vegetazione il suo influsso benefico. «Dove stiamo andando?» chiese Giannina. Marito e moglie sedevano entrambi nel sedile anteriore, con la bambina in mezzo. Il padre staccò la mano dal volante e la posò sui riccioli bruni della figlia. «Andiamo a dare un'occhiata a delle tombe di più di 4 o 5.000 anni fa», rispose, col tono di chi comincia a raccontare una favola, e perciò non ha ritegno a esagerare nei numeri. «Tombe etrusche!» «Che malinconia!» sospirò Giannina, appoggiando la nuca allo schienale. «Perché malinconia? Te lo hanno detto a scuola chi erano gli etruschi?» «Nel libro di storia gli etruschi stanno in principio, vicino agli egizi e agli ebrei. Ma senti, papà, secondo te erano più antichi gli etruschi o gli ebrei?» Il papà scoppiò a ridere. «Chiedilo a quel signore lì», disse, accennando a me col pollice. Giannina si voltò. Con la bocca nascosta dall'orlo dello schienale, mi dette una rapida occhiata, severa, diffidente. Aspettai che ripetesse la domanda, ma niente. Subito tornò a guardare dinanzi a sé. Giù per la strada, sempre in lieve pendenza e fiancheggiata da una doppia fila di cipressi, ci scendevano incontro gruppi di paesani, ragazze e giovanotti. Era la passeggiata della domenica. Le ragazze formavano a volte, tenendosi a braccetto, delle catene che arrivavano fino al centro della strada. Nell'attimo che le incrociavamo, ci sentivamo scrutati attraverso i vetri dai loro occhi ridenti, nei quali la curiosità si mescolava a una specie di strano orgoglio, di disprezzo appena dissimulato. «Papà», domandò ancora Giannina, «perché le tombe antiche fanno meno malinconia di quelle più nuove?» Una brigata più numerosa delle altre, che occupava buona parte della carrozzabile e cantava in coro senza darsi pensiero di cedere il passo, aveva costretto l'automobile quasi a fermarsi. L'interpellato ingranò la seconda. «Si capisce», rispose. «I morti da poco sono più vicini a noi e appunto per questo gli vogliamo più bene. Gli etruschi, vedi, è tanto tempo che sono morti». E di nuovo stava raccontando una favola, che è come se non siano mai vissuti, come se siano sempre stati morti. Altra pausa, più lunga, al termine della quale eravamo già molto prossimi allo spazio antistante all'ingresso della necropoli, pieno di automobili e di torpedoni, toccò a Giannina impartire la sua lezione. «Però, adesso che dici così», proferì dolcemente, «mi fai pensare che anche gli Etruschi sono vissuti, invece, e voglio bene anche a loro, come a tutti gli altri. La visita alla necropoli, ricordo, si svolse poi nel segno della straordinaria tenerezza di questa frase. Era stata Giannina a disporci a capire. Era lei, la più piccola, che in certo modo ci teneva per mano. Penetrammo all'interno della tomba più importante, quella che era stata della nobile famiglia Matuta, una bassa sala sotterranea che accoglie una ventina di letti funebri disposti dentro altrettante nicchie delle pareti di tufo e adorna fittamente di stucchi policromi raffiguranti i cari, fidati oggetti della vita di tutti i giorni: zappe, funi, accette, forbici, vanghe, coltelli, archi, frecce, perfino cani da caccia e volatili di palude. E intanto, deposta volentieri ogni residua velleità di filologico scrupolo, io venivo tentando di figurarmi concretamente ciò che potesse significare per i tardi etruschi di Cerveteri, gli etruschi dei tempi posteriori alla conquista romana, la frequentazione assidua del loro cimitero suburbano. Venivano dal prossimo abitato probabilmente a piedi, fantasticavo, a gruppi di famiglie, a brigate di giovani simili a quelle da noi incontrate testé per strada, a coppie di innamorati o di amici, oppure soli, proprio come ancora oggi, nei paesi della provincia italiana, il cancello del Camposanto è il termine obbligato di ogni passeggiata serale. Si incontravano fra le tombe a cono, solide e massicce, come i bunker di cui i soldati tedeschi hanno sparso vanamente l'Europa durante quest'ultima guerra. A poco nei secoli, le ruote ferrate dei trasporti avevano scavato due profondi solchi paralleli nella via lastricata che attraversava da un capo all'altro il cimitero. Tombe che certo assomigliavano, anche nella forma interna, alle abitazioni fortilizie dei viventi. Il mondo cambiava, sì, dovevano dirsi. Non era più quello d'una volta, quando l'Etruria, con la sua confederazione di libere città-stato aristocratiche, dominava quasi per intero la penisola italica. Nuove civiltà, più rozze e popolari, ma anche più forti e agguerrite, tenevano ormai il campo. Ma che cosa importava? Varcata la soglia del cimitero, dove ognuno di loro possedeva una seconda casa, e dentro questa il giaciglio già pronto su cui, tra poco, sarebbe stato coricato accanto ai padri, l'eternità non doveva più sembrare un'illusione, una favola, una promessa da sacerdoti. Il futuro avrebbe stravolto il mondo a suo piacere. Lì, tuttavia, nel breve recinto sacro ai morti familiari, nel cuore di quelle tombe dove, insieme coi morti, si provvedeva a far scendere tutto ciò che rendeva bella e desiderabile la vita, in quell'angolo di mondo difeso, riparato. Almeno lì, e il loro pensiero, la loro pazzia, aleggiava ancora dopo 25 secoli attorno ai tumuli conici ricoperti d'erbe selvagge, almeno lì nulla sarebbe mai cambiato. Quando ripartimmo era buio. Da Cerveteri a Roma non c'è molto, appena una quarantina di chilometri. Eppure non si trattò di un viaggio breve. A metà strada l'Aurelia cominciò a ingolfarsi di macchine provenienti dalla Dispoli e da Fregene. Fummo costretti a procedere quasi a passo d'uomo. Ma già, ancora una volta, nella quiete e nel torpore, anche Giannina si era addormentata, io riandavo con la memoria agli anni della mia prima giovinezza e a Ferrara e al cimitero ebraico posto in fondo a via Montebello. Rivedevo i grandi prati sparsi di alberi, le lapidi e i cippi raccolti più fittamente lungo i muri di cinta e di divisione, e, come se l'avessi addirittura davanti agli occhi, la tomba monumentale dei Finzi Contini. Una tomba brutta, d'accordo, avevo sempre sentito dire in casa fin da bambino, ma pur sempre imponente e significativa, non fosse altro che per questo dell'importanza della famiglia. E mi si stringeva come non mai il cuore al pensiero che in quella tomba, istituita, sembrava, per garantire il riposo perpetuo del suo primo committente, di lui e della sua discendenza, uno solo, fra tutti i Finzi Contini che avevo conosciuto ed amato io, l'avesse poi ottenuto, questo riposo. Infatti, non vi è stato sepolto che Alberto, il figlio maggiore, morto nel 42 di un linfogranuloma. Mentre Nicole, la figlia secondogenita, e il padre, professor Ermanno, e la madre, signora Olga, e la signora Regina, la vecchissima madre paralitica della signora Olga, deportati tutti in Germania nell'autunno del 43, chissà se hanno trovato una sepoltura qualsiasi. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.